Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Eccomi qui, come tutte le mattine a darvi il buongiorno, qualche idea per iniziare a proseguire bene la giornata. Oggi come va? Intanto che ci pensate, magari postate la risposta sui nostri social, che sono sempre a vostra disposizione. Do il benvenuto ad Andrea Urbani, direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute. Buongiorno, dottore. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Dottor Urbani, ogni giorno noi ci occupiamo della nostra salute, parliamo di prevenzione, di stile di vita, commentiamo studi e ricerca. Oggi facciamo con lei una piccola digressione perché continuiamo a parlare di salute, ma della salute del nostro Servizio Sanitario Nazionale, a cui lei ha dedicato un libro che si intitola Il Servizio Sanitario Nazionale guarda al futuro verso nuovi e più evoluti schemi di governance, edito da Egea. Prima di guardare al futuro, mi faccia capire se al momento il nostro Servizio Sanitario Nazionale gode di buona salute. Assolutamente sì, oggi il nostro Servizio Sanitario Nazionale è uno degli ultimi al mondo universalistico, cioè offre cure gratuite a tutti quanti i cittadini ed è sostenibile, cioè un servizio che è in equilibrio finanziario. Però lei scrive nel suo libro, non sarà così per sempre. Oggi, grazie agli sforzi che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni, abbiamo un servizio che è in grado di mantenere le promesse e le aspettative, pur con tutti i suoi limiti, se vuole poi ne parleremo. Ma in realtà nuove sfide arrivano all'orizzonte, una popolazione che invecchia in maniera importante, si porta appresso dei fabbisogni di salute altrettanto importanti, così come innovazioni stanno arrivando talmente dirompenti che modificheranno la salute fortunatamente della popolazione, ma che hanno dei costi importanti cui dobbiamo fare fronte. Quindi, dottor Urbani, da quanto lei mi dice è necessario un cambio di passo. Dobbiamo imparare a vedere il nostro servizio sanitario da una prospettiva diversa. Sì, dobbiamo imparare tutti quanti ad averne cura, sia gli amministratori come noi, sia i cittadini che oggi probabilmente non dico che non sanno apprezzare, però danno per scontate molte cose che in realtà non esistono in altri paesi del mondo, paesi anche vicini a noi per cultura. Ecco, ci faccia qualche esempio, perché quando noi sentiamo dire che il nostro servizio sanitario è tra i migliori al mondo per qualità, costi e prestazioni erogate, non ce ne rendiamo perfettamente conto. Facciamo qualche confronto. Noi abbiamo la seconda aspettativa di vita del mondo occidentale, questo è un proxy di qualità delle cure che eroghiamo. Abbiamo i migliori tassi di sopravvivenza in malattie potenzialmente letali, mi riferisco ai tumori, alle malattie cardiovascolari, dei tassi di mortalità che continuano a diminuire, sono diminuiti di oltre il 12% e del 30% rispettivamente negli ultimi 7 anni. Le faccio un esempio: un cittadino australiano, se chiede una risonanza magnetica, probabilmente gli viene risposto: attenzione, l'hai già chiesta 3 mesi fa, devi aspettare altri 3 mesi per poterla fare. Da noi questo non avviene, magari ne facciamo anche troppe, però preferisco il mio di sistema. La tutela della salute dei cittadini, dottor Urbani, è garantita dalla nostra Costituzione, ma non tutti i cittadini si sentono garantiti allo stesso modo. Si fa spesso riferimento alla disparità di servizi e condizioni di salute, ad esempio tra le regioni del nord e quelle del sud. Sì, sapete che poi l'organizzazione dei servizi sanitari è compito delle singole regioni. Sì. Qui chiaramente ci sono capacità e storie e culture differenti, perché i soldi che lo Stato mette sulle singole regioni sono sostanzialmente gli stessi sia a nord che a sud. Ma come mai poi succede questo, questa situazione? Le regioni che hanno una migliore capacità di governare i sistemi sanitari, quindi di allocare le risorse, quindi di spendere, e regioni che invece hanno dimostrato di avere una minore capacità di spendere e spendere bene. E cosa state facendo per aiutare quelle regioni a spendere meglio? Oh, partiamo adesso dal 1 gennaio 2020, partiremo con un sistema di monitoraggio molto più puntuale di tutti i livelli di assistenza e interverremo, lo prevede il Patto per la Salute, selettivamente per aiutare le regioni, con uno spirito collaborativo, per aiutare le regioni ad alzare quei singoli livelli o quegli ambiti di assistenza sui quali riteniamo che i cittadini non siano garantiti. Sul cittadino che conseguenze avrà e in che tempi? I tempi di potenziamento dei singoli livelli di assistenza saranno dei tempi, ritengo, medi, ma nel frattempo, per esempio, con il nuovo piano nazionale di governo delle liste d'attesa abbiamo dato una risposta ai cittadini molto importante, perché noi garantiremo, e siamo d'accordo con tutte le regioni, alcune prestazioni entro determinati tempi che riteniamo coerenti con la gravità della patologia. Laddove questo non è consentito, cioè laddove questo non si realizza sul singolo territorio, il cittadino avrà diritto a rivolgersi al privato accreditato pagando solamente la quota di compartecipazione se è prevista, quindi come se l'erogasse al pubblico. Sostanzialmente dei percorsi di tutela. Percorsi di tutela, di che prestazioni mi sta parlando, dottor Urbani? Specialistica ambulatoriale, prestazioni di diagnostica, le famose liste d'attesa, quando sentiamo sempre dire che per fare una risonanza magnetica, un'ecografia si aspettano 6 mesi, in realtà noi, se c'è la prescrizione del medico che la ritiene necessaria, la garantiamo in 30 o 60 giorni. Qualora non si riesca a rispettare questo termine, il cittadino avrà diritto, attraverso un percorso di garanzia individuato dalla singola regione, ad avere quella prestazione in intramenia o nel privato accreditato e verrà pagata dal Servizio Sanitario Pubblico. Chi aiuterà il cittadino a destreggiarsi in questa burocrazia? Le singole regioni ed eventuali disservizi possono essere segnalati al numero del Ministero della Salute, il 1005, che è attivo da oltre un anno. Dottor Urbani, guardiamo al futuro. Il nostro servizio sanitario, come lei ha anticipato, è chiamato ad affrontare nuove sfide, prima fra tutte quelle dell'invecchiamento della popolazione e della sostenibilità dell'innovazione, che è sotto gli occhi di tutti, sta trasformando molte malattie da inguaribili a curabili. Assolutamente vero, pensate il CAR-T che sostanzialmente si qualifica come un piccolo miracolo alla luce delle conoscenze di solo qualche mese fa, no? Che sta curando alcune forme di tumori che in realtà erano inguaribili. Queste innovazioni hanno dei costi importanti e chiaramente dobbiamo trovare gli spazi all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Questo presuppone una valutazione più puntuale del valore dell'allocazione delle risorse. Noi dobbiamo imparare a non ragionare più per silos di spesa, tetti di spesa, ma a ragionare per costo della patologia, andando ad allocare le risorse laddove i fattori si rendano più utili per curare la patologia. Quindi vuol dire imparare a misurare puntualmente il valore di tutto quello che mettiamo a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale. Questo in termini di accesso all'innovazione. Per quanto riguarda l'invecchiamento della popolazione, sarà un fenomeno importante che ci travolgerà nei prossimi 20 anni. Noi oggi abbiamo il 20% dei cittadini che hanno più di 65 anni, tra 20 anni questa percentuale passerà a un terzo. È un cittadino cronico, fortunatamente, perché invecchia in maniera importante, però si porta appresso una serie di patologie che determinano carica assistenziale. Allora, anche su questo noi dobbiamo lavorare per migliorare tutta l'offerta dei servizi territoriali. Dottor Urbani, la tutela della salute, abbiamo detto, è un diritto, ma ci sono anche dei doveri. Che cosa possiamo fare noi come cittadini per salvare o per contribuire a mantenere in salute deficiente nel tempo il nostro Servizio Sanitario Nazionale? Un pelino di pazienza quando alcuni di servizi non riusciamo a comprendere. In realtà sono parte di un sistema molto più complesso che ha come come abbiamo ricordato fino adesso, grande qualità. Dobbiamo investire sulla prevenzione, ciascuno di noi può fare la sua parte. Sappiamo che il 50% delle nostre malattie sono figlie dei nostri comportamenti, quindi attività fisica, non fumare, corretta alimentazione. Comportandoci in questo modo, probabilmente noi costruiremo una futura generazione molto più in salute. Quello che può fare il cittadino è adottare sicuramente immediatamente, appena può, dei corretti stili di vita. Dottor Urbani, grazie per questa chiacchierata davanti al primo caffè della mattina. Ricordo il titolo del suo libro, Il Servizio Sanitario Nazionale guarda al futuro verso nuovi e più evoluti schemi di governance, edito da Egea. Le auguro una buonissima giornata e soprattutto un ottimo lavoro. Grazie. Bene, adesso devo proprio salutarvi, vi do appuntamento a mezzogiorno per lo spazio dedicato alle notizie che arrivano dal mondo della ricerca, e per chi vuole seguire le ricette del nostro medicuoco quasi cuoco, la ricetta di oggi, che è dedicata agli sportivi, è consultabile sulle pagine di Obiettivo Salute. Quindi un saltino sulle pagine di Obiettivo Salute, la ricetta del gladiatore di Stefano Arzegovesi, pronti tutti scattanti per una nuova giornata. Buonissima giornata, a mezzogiorno, un saluto da Nicoletta.